Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. In collegamento telefonico con Annalisa di Anticordone per il nuovo appuntamento di Ugo. A parterre, Farnesina Social Garden, martedì 31 luglio. Annalisa, ben trovata. Grazie, ciao Federico, ben trovato tu. Ciao. Sì, Ci... avremo questo nuovo appuntamento estivo il 31 luglio lì al parterre con un bel cast che se vuoi ti dico. E diciamolo, diciamo la formazione. Diciamo una formazione tostissima, Francesca Agostini, Nicole Balassone, Mimosa Campironi come intervento musicale, Martina Catuzzi, Paola Michelini, Cristina Pellegrino, Francesca Stasce, Erika Tesio, Cristiana Vaccaro e la sottoscritta Annalisa di Anticordone. Insomma, molto felici di essere a questo appuntamento perché questo è uno spazio nuovo che hanno inaugurato quest'anno e avrà un grande palco e quindi per noi è una bella opportunità e siamo contenti insomma di esserci. A ognuna di voi faccio fare sempre una presentazione di Ugo per chi non lo conoscesse. Ce ne parli anche tu? Ugo è un oggetto non identificato di contenuti vari, quindi diciamo che mantiene un alone di mistero, perché ogni volta ha una componente nuova, sia attorale che autorale. È un organismo, un'entità, ecco, formata da diverse ragazze, insomma, che lo sostengono. E che dirti, sì, è una grande occasione per noi ogni volta di metterci in scena con testi diversi e con formazioni attoriali diverse, quindi è uno spettacolo sempre nuovo che offre tanti spunti anche di comicità, di riflessione, è un po' un dramedy, ma anche a volte comico, quindi diciamo che è sfaccettata, è un organismo, un'entità sfaccettata e piena di contenuti diversi. Circa un'ora di spettacolo con un po' di minuti a testa, giusto? Ma noi facciamo, sì, in genere superiamo l'ora sempre, Meno in male. genere facciamo interventi che vanno dai 5 agli 8 minuti massimo e poi ci sarà nuovamente con noi a questo appuntamento Mimosa Campironi, che è un'attrice nonché cantante e compositrice eccezionale, quindi ci deletterà con qualche suo intervento, non sappiamo ancora quale, però insomma. Quindi sì, diciamo che lo spettacolo è su un'ora e 20, un'ora e un Ok. quarto, cioè raramente siamo state sotto l'ora, ecco. Anzi, mai, mai. Senti, si è cominciato all'interno degli studi di Radio Rock, c'è stata la prima uscita estiva al Gay Village, questa è la seconda, poi come continuerà l'estate? Noi avremo un altro appuntamento ai Giardini della Filarmonica il 28 agosto, con una formazione anche in quel caso molto diversa, che poi non so, per adesso appunto ci saranno le No Choice, Nicole Balassone, Cristina Pellegrino, Arianna Dell'Arti, io, Luisa Merloni, Linda Di Pietro, Francesca Stasce e forse qualche altro nome in via di definizione. Abbiamo scelto insomma degli appuntamenti, avevamo anche altre possibilità, ma abbiamo scelto di fare delle piazze ci potessero, insomma, anche che ci fosse la giusta distanza tra un appuntamento e un altro. Sì. Quindi no, diciamo, abbiamo avuto questo debutto al Gay Village, è stato estivo, che è stato molto bello. Questo palco del Parterre Farnesina è molto simile a quello del Gay Village, quindi è un palco grande, e invece ai Giardini, essendo una rassegna teatrale, ci consentirà anche forse una performance un po' diversa, ecco, perché noi abbiamo sempre fatto in ambienti con palchi aperti, dove comunque in qualche modo dovevamo anche, io dico, utilizzo questa parola bucare, no? Però Sì. comunque avere un contatto con il pubblico di un certo tipo. Ai Giardini potremmo permetterci una cosa forse un po' più, non saprei come definirla, un po' più teatrale, no, meno, forse meno performativa a tutti i costi, Ok, ecco, sì. sì. Senti, Annalisa, a tuo modo di vedere, come si sta sviluppando questo progetto di volume in volume? In modo molto, prima di tutto, fluido, perché abbiamo comunque. Ci siamo dimenticati l'appuntamento che abbiamo avuto sempre in estiva con la biblioteca. Ah, è vero, vero. Eh sì, infatti non l'abbiamo nominata, sì, con la rassegna off del Festival delle Letterature di Massenzio. Sì. Come lo vedo? Va molto bene, è molto fluido, e abbiamo tantissime adesioni, addirittura ci hanno chiamato da Milano, ci avevano proposto di farlo a Milano, adesso dobbiamo valutare, quindi comunque c'era bisogno, secondo me, ecco, di questo tipo di organismo, di questo tipo di coalizione, per cui questo lo vediamo dalle risposte che il pubblico dà e dalle adesioni che ci danno le altre attrici e altre autrici. Quindi sento che va a riempire, Ugo, va a riempire un buco. Potrei definire così, un buco, cioè comunque è qualcosa che in questo momento serve. Ok, per i Perché non riferimenti si tratta poi sì. della solita kermesse di alcune donne strane che fanno una cosa lì, cioè comunque dietro c'è un pensiero, noi abbiamo delle autrici con le quali collaboriamo e diciamo che anche per noi questa informazione si sta creando ancora di più questa coalizione, quindi diciamo il nostro punto di forza è anche questo, avere delle autrici che scrivono per noi. E poi noi mettiamo in scena il pezzo anche personalizzandolo. Sì. Allora, c'è l'evento, la pagina Facebook dell'evento, c'è la pagina Facebook proprio del progetto Ugo. Ricordiamo l'appuntamento a Parterre Farnesina Social Garden per il prossimo martedì 31 31 luglio. luglio, Un alle saluto e un 22. ringraziamento ad Annalisa di Anticordone. Annalisa, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. E allora grazie anche a te Federico, grazie tantissimo e venite perché poi prima di andare in vacanza, insomma, l'ultima spruzzata di Ugo. Ciao, a presto. Grazie, ciao a te, grazie, ciao ciao. In collegamento telefonico con Nicola Bianco, consulente della direzione artistica della 25esima edizione dei Solisti del Teatro ai Giardini della Filarmonica Romana dal 19 luglio al 7 settembre. Nicola, ben trovato. Ciao Federico, ben trovati a tutti. Come state quest'anno? Tutto bene. Meno male, meno male. Sì, ti racconto, grazie intanto Federico per questa intervista. Siamo alla 25esima edizione, Le Nozze d'Argento dei Solisti del Teatro, nato, lo ricordo, nel 1994, direzione artistica di Carmen Pignataro. Iniziamo domani sera, il 19 luglio, e andiamo avanti fino al 7 settembre per un totale di 36 spettacoli in cartellone. Io Federico mi permetto soltanto di fare una premessa velocissima. Noi ringraziamo tutte le compagnie e tutti gli artisti che quest'anno hanno aderito al nostro cartellone e che hanno deciso di venire a partecipare a questa 25esima edizione, perché gli spettacoli saranno tutti quanti ad incasso, non ci sono cachet. Tu lo sai che noi ormai già dall'anno scorso siamo senza finanziamenti pubblici, per cui nuovamente questa edizione è quasi veramente una missione senza soldi, e per cui grazie all'aiuto degli artisti, all'aiuto anche degli allestitori e di One Name in questo caso siamo riusciti ad aprire anche quest'anno. Per cui ci siamo con 36 spettacoli da domani sera. Ti faccio una rapida carrellata, tu lo sai, i solisti del teatro hanno questa caratteristica di cambiare spettacolo ogni sera, abbiamo i grandi nomi come Roberto Erlisca, Tino Strabioli, Evelina Megnaggi, il nuovo spettacolo di Luciano Melchionna, Viola Graziosi, e partiamo domani sera con Pierino il Lupo, con Antonello Fassari e Lorenzo Lavia, testo famosissimo e un'orchestra dal vivo. Sai che i solisti del teatro si contraddistinguono anche per la contaminazione dei generi, per cui abbiamo spettacoli di danza,

Dal 6 luglio all'8 settembre, 46 appuntamenti di prosa e danza in 20 musei, abbazie e siti archeologici della Regione Lazio. Anna, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie a te, Federico, ti aspettiamo, eh? Vieni a godere di un po' di bellezza nella bellezza, come uso dire io. Benissimo, a Va presto. bene, un abbraccio, grazie. Siamo con Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette per parlare di Un'Odissea in Valsamoggia, dal 4 luglio al 1 agosto in 5 differenti piazze. Stefano, ben trovato. Buongiorno a tutti, ciao Federico. Raccontaci tutto. Allora, vi racconto che stiamo per salpare per questa meravigliosa avventura che coinvolge naturalmente tutta l'equipe del Teatro delle Ariette, ma coinvolge più di 50 persone, cittadini del nostro comune e delle zone limitrofe di Valsamoggia, di età compresa tra gli 83 e i 4 anni, di origini, nazioni, lingue, provenienze, culture diverse, che con entusiasmo da alcuni mesi si trovano per costruire questo evento, questa odissea a puntate da rappresentarsi nelle piazze del comune di Valsamoggia. Com'era partito tutto? Beh, tutto è partito da questo progetto che noi portiamo avanti già da 4 anni, che si chiama Territori da Cucire, dal nostro comune, che è il risultato della fusione di 5 comuni molto diversi. E noi che pensiamo, col linguaggio del teatro, di contribuire a questa fusione, perché una comunità di fatto non è solo un'entità geografica, anzi non lo è per niente, è soprattutto un sistema di relazioni. Sì. Il teatro costruisce relazioni, per cui abbiamo cominciato a costruire relazioni attraverso il teatro, andando nei luoghi più disparati, lontani, privati, aziende agricole, case, tutti i luoghi della vita della nostra comunità. E così negli anni scorsi abbiamo fatto, fino all'anno scorso, dove abbiamo incontrato moltissime realtà e persone di origini straniere. E quest'anno abbiamo con loro desiderato interrogarci attorno ai temi che l'Odissea di Omero porta a noi contemporanei, perché è un'opera che ha 2500 anni, ma che continua a interrogarci sui pilastri della nostra cultura, cioè cosa significa il desiderio di conoscenza, cosa significa la relazione con l'altro, la sacralità dell'ospitalità e dell'accoglienza, il valore di ricchezza di tutto quello che è diverso, sconosciuto e, tra virgolette, straniero, la difficoltà e la paura di relazionarsi con i nostri simili. Con queste domande noi ci confrontiamo ancora oggi, quindi abbiamo preso a pretesto, e non solo a pretesto, perché effettivamente la racconteremo in 5 puntate l'Odissea di Omero, per interrogarci su chi siamo oggi in questo tempo 2018, un po' sconvolto da migrazioni, da paure quasi ancestrali, da irrazionalità. E ci siamo messi di fronte a noi stessi per farci queste domande attraverso il teatro. Sì. Materialmente, com'è stata la costruzione con tutte queste persone di queste 5 tappe? Beh, la struttura di ogni tappa è una struttura abbastanza simile a quella di un varietà, perché in una parte di ogni puntata affronteremo la narrazione delle avventure di Odisseo attraverso i testi di Omero nella traduzione di Emilio Villa, che noi abbiamo ridotto, e quindi non riscritto, ma soltanto tagliato. Però questa è una parte, mentre c'è un'altra parte molto importante dove i contributi che portiamo sono fortemente autobiografici, cioè vengono dalle nostre esperienze di vita. Per cui abbiamo cominciato a lavorare con tutte le persone chiedendo un contributo di storia, un contributo di azione, qualcuno, non so, se ne legno, altri hanno portato materiali o hanno scritto delle cose, e quindi in questa prima parte della serata, oltre ad accogliere gli spettatori attorno a dei tavolini, perché l'Odissea di fatto è un lungo racconto autobiografico che Odisseo fa alla tavola dei Feaci, no? E quindi noi serviremo le cose che prepariamo da mangiare, e in questa atmosfera di, tra virgolette, banchetto, porteremo, come Odisseo porta la sua autobiografia di fronte agli stranieri, noi porteremo le nostre autobiografie mescolate di fronte agli spettatori. Quindi il processo è stato quello, potremmo immaginare, di un laboratorio teatrale, ma soprattutto di un laboratorio esperienziale, dove ci siamo confrontati, conosciuti, abbiamo pensato di usare diverse lingue, perché andiamo dall'albanese al rumeno, al bosniaco, all'africano, chiada, anche se temo che... al magrebino, insomma abbiamo una rappresentanza, nonché i dialetti, il dialetto sardo, o meglio sarebbe dire la lingua sarda, il dialetto emiliano, genovese, insomma lo spirito dell'incontro è stato lo spirito che ha accompagnato tutte le nostre tappe di laboratorio. Ok. Stefano, un'ultima curiosità, ognuno di questi cinque capitoli ha data unica? Ognuno di questi cinque capitoli ha una data unica? Sì, i cinque capitoli sono uno per ogni piazza, perché il nostro comune è il risultato della fusione di cinque comuni, quindi cominceremo da Monteveglio, poi Savigno, poi Castelletto di Serravalle, poi Castellano e in ultimo Bazzano. Quindi gli eventi non saranno ripetuti, okay, ma c'è, diciamo, un filo che li lega e strutturalmente si ripeteranno, cioè alcune cose torneranno come potremmo chiamarli tormentoni nel linguaggio, ma non sono tormentoni, torneranno come titoli di capitoli. Quindi diciamo che l'Odissea in Valsamoggia può essere seguita tutta nella sua interezza, e troverai uno svolgimento di queste cinque puntate e anche di tutti i contributi autobiografici che noi portiamo, ma può essere anche fruita singolarmente, cioè capitolo per capitolo, nel senso che diceva, non saprai come andrà a finire, te lo leggerai sul libro magari, ma ogni serata ha un suo senso compiuto e si chiude con la proposta di un cortometraggio intitolato Cercando Itaca, che è legato a conversazioni che noi abbiamo fatto con cittadini del nostro territorio, cittadini molto diversi, a proposito dei temi dell'Odissea, soprattutto a proposito dei temi della nostra Itaca. Qual è la nostra Itaca? Il luogo del nostro cuore, il luogo dove vorremmo vivere o dove vorremmo tornare. E dopo questo contributo in video realizzato in collaborazione con Stefano Massari e Carlotta Cicci, la piazza diventerà assemblea, quindi noi portiamo i nostri contributi autobiografici e alla fine di ogni serata lo spazio scenico, la nave di Ulisse, diventerà il luogo dove spettatori, attori, cittadini possono discutere sui temi affrontati durante la serata, e gli spettatori possono portare suggestioni, contributi, testi, pensieri, raccontare esperienze da condividere con tutti gli altri. Benissimo. In chiusura, Stefano, ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Un sito internet, una pagina Facebook? Sì, potete andare sul www.teatrodelleariette.it e approfondire anche sul Facebook Teatro delle Ariette, dove c'è anche un blog a cura di Raffaella Ilari, per chi vuole anche spendersi, mettere pensieri, esperienze, considerazioni. Benissimo, allora ricordiamo un'Odissea in Valsamoggia dal 4 luglio al 1 agosto in 5 differenti piazze. Un ringraziamento e un saluto a Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette. Stefano, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie.

offrire alle famiglie un concreto momento culturale dopo la giornata di mare. Ok. Vedo che per i riferimenti c'è una pagina Facebook di Teatri d'Arrembaggio. Esatto, la pagina Facebook è proprio Teatri d'Arrembaggio. C'è anche il sito internet, che è il sito dell'associazione che ha ideato la rassegna, che è l'associazione che io rappresento, cioè Valdrada. Quindi il sito è www.valdradateatro.it. Perfetto. E per le informazioni c'è l'indirizzo mail info@valdradateatro.it e la prenotazione è necessaria soltanto per i laboratori e per lo spettacolo Aligatù, che è uno degli spettacoli per bambini, che si svolge all'interno di un piccolo tendone, quindi il numero di posti è limitato. Bene. Allora, quarta edizione di Teatri d'Arrembaggio ad Ostia dal 21 luglio al 26 agosto. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Becchimanzi, che è una delle curatrici. Chiara, un abbraccio e un in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio a te, grazie mille. E crepi il lupo o viva, a seconda dell'orientamento. Ciao. Ciao. Siamo con Marco Pasquinucci, direttore del Festival Fra Terra e Cielo, Festival delle Colline Geotermiche, dal 1 luglio al 26 agosto. Marco, benvenuto. Grazie. Ci presenti questo festival? Molto volentieri. Allora, questa è la settima edizione di questo Fra Terra e Cielo, che è nato come un piccolissimo festival. È la prima edizione qua nel piccolo comune di Pomarancio, uno dei comuni geotermici, così dall'amore per il teatro e dalla fiducia di alcuni colleghi attori e attrici che sono venuti così a investire il loro lavoro all'interno di questo festival, e poi è cresciuto in questi 7 anni, quindi un po' di commozione, la voce c'è quasi da papà, perché appunto è diventato negli ultimi 3 edizioni un festival con dei nomi di caratura nazionale, quindi si sta imponendo appunto come uno degli appuntamenti culturali legati al teatro appunto dell'estate toscana e italiana. E quest'anno, oltre l'Italia, è sempre legato molto alla drammaturgia contemporanea e alla scena contemporanea italiana. Quest'anno appunto abbiamo i 2 premi dell'anno scorso, abbiamo Un quaderno per l'inverno e Forte Pace Teatro con il suo splendido Cantico dei Cantici, abbiamo Arianna Scommegna, insomma poi tutti i titoli avrete modo appunto di vederli sul sito, chi ci segue direttamente sulla pagina di cinepapasi.it. La cosa più bella è l'apertura del festival, che sarà appunto in un luogo a noi molto caro, molto geotermico, che è quella all'interno di una centrale Enel, la centrale Enel numero 3 di Arderello, con questo lavoro site specific sulla storia di questo territorio, una storia intrigante, interessante, magari poco conosciuta, però molto importante anche in questo momento storico, perché il lavoro è molto importante, qui si parla appunto di imprenditoria e di un certo modo di fare imprenditoria. Questo spettacolo si intitola Smoking Land, che vuol dire terra fumante, ed è dedicato a questo territorio, e ci sarà appunto proprio domani sera, il 1 luglio, all'interno di una torre refrigerante dell'Enel, che sono queste cose, questa specie di camini molto grandi, sono alti 50 metri, da cui che servivano per far raffreddare l'acqua, sono diventati dei monumenti di architettura industriale. Uno di questi è stato tagliato a metà e è diventato, grazie proprio al nostro festival, un luogo di spettacolo, e il festival si apre con questo spettacolo, che è una nostra produzione. Allora, si svolge in più aree della zona pisana e grossetana, sarà a tappe? Esatto, caratteristica appunto del festival, che in questo caso non lo fa studiare una rassegna, è proprio il fatto che va a colonizzare un po' i posti più belli di questo territorio, dai borghi antichi, quindi le fazioni del comune di Pomarance, a luoghi particolarmente strani, lunari, come il parco delle Bianche di Monte Rotondo Marittimo nel Grossetano, come giustamente dicevi tu, alla Rocca di Fillano, che è una rocca difensiva dell'inizio del 200, che ha 500 metri di altezza, di spostarsi poi al Museo delle Miniere, a Monte Cassino di Cesena, che è un altro comune geotermico che fa parte del festival, poi si passa da Monteverdi Marittimo per a approdare poi a Castelnuovo Val di Cecina, dove anche lì siamo vicini a queste che chiamano fumarole, un luogo appunto dove il terreno ancora fuma, ci sono ancora delle emissioni di acqua calda, si sente proprio un bollore, e lì ci sarà appunto location spettacolare per il Cantico dei Cantici di Fortebraccio Teatro. E quindi caratteristica è anche quella appunto di andare a muoversi nei posti più belli dei nostri territori. Una cosa che ho dimenticato di dire, che però appunto non è da meno, è che un altro degli spettacoli di punta del nostro festival sarà un'altra nostra produzione che noi con grande amore e grande felicità facciamo insieme a Cuoco Le Posetti, Gaia Theater, che è un lavoro che insomma anche sposta un po' anche il loro universo creativo dalla coppia, dall'attualità Cuoco Le Posetti, e in questo caso appunto si sono messi in gioco con noi di Officina Capace, e ci sarà questo debutto, con debutto nazionale il 12 e il 13 di luglio all'interno del Teatro dei Coraggiosi, non sul palco ma in platea, quindi rivoluzioniamo un po' lo spazio teatrale in questo lavoro che si chiama Invasion of Love. Quante saranno le opere presenti al festival? Sono 11 appuntamenti. 11 appuntamenti. A parte l'evento speciale, la partenza vera e propria è il 12 luglio. Sì, esatto, il primo, a parte questo evento Smoking Land, che è il vero, cioè, come dire, il vero debutto ufficiale appunto del festival, inteso come festival, è proprio il 12 luglio al Teatro dei Coraggiosi, 12-13, con l'invitation a prova, a cui ci fa molto piacere anche invitarti se potrai venire a vederlo. A che edizione siamo arrivati? Questa è la settima. La settima edizione. Ricordiamo le date: dal 1 luglio con evento speciale, poi dal 12 luglio al 26 agosto con il corpo del festival Tra Terra e Cielo, festival delle colline geotermiche in varie località dell'area pisana e grossetana. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Marco Pasquinucci. In chiusura, Marco, ci dai anche tutti i riferimenti web per la programmazione? Assolutamente, il nostro sito officinecapace.it, ma soprattutto la nostra pagina Facebook che è Officine Capace e anche Instagram Officine Capace. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie dell'attenzione e della vostra gentilezza. In collegamento telefonico l'autrice e attrice Tiziana Scrocca per parlare del progetto Sulle tracce di Ulisse, dal 24 al 31 luglio a Cefalonia e Itaca. Tiziana, ben trovata. Ciao, ben trovati a te Federico e a tutti quanti. Ci racconti? Allora sì, questo progetto è nato un anno fa, che ho incontrato a Cefalonia Francesca Bossi e Dimitri Gagliassatos, che è un'artista cefalonita, che hanno una bellissima casa appunto a Cefalonia. La loro casa spesso è una residenza artistica, fanno dei laboratori di scrittura di viaggio, di fotografia, e quindi niente, io lì nella loro casa ho fatto un anno fa il mio spettacolo I fili di Penelope, perché era proprio un terrazzo naturale al tramonto, meraviglioso, hanno come un teatro a cielo aperto, e da lì è nata l'idea di fare questo progetto, di portare invece delle persone a Cefalonia e fargli fare un percorso sull'Odissea. Quindi ogni giorno noi porteremo le persone in giro per l'isola e racconteremo delle storie dell'Odissea, i luoghi significativi, i luoghi che hanno un'attinenza con quella narrazione. Quindi racconteremo, che ne so, il viaggio e le avventure del mare proprio sulle falesie di Pallichi, racconteremo la creazione invece dal monastero di Agriglia, dove c'è proprio un rapporto cielo-terra che sembriamo un po' all'inizio del mondo. E poi dopo tutto, diciamo, un sei giorni dedicato all'Odissea, al viaggio, al ritorno, all'aspirazione di Itaca, l'ultima sera arriviamo appunto ad Itaca, e lì ci sarà lo spettacolo proprio nella capitale di Itaca con il comune, che ha dato il patrocinio e sta collaborando con noi perché si sono appassionati a quest'idea, e ci sarà lo spettacolo che sarà in italiano e in greco, cioè una parte tradotta prima per il pubblico greco e poi lo spettacolo in italiano per gli italiani, insomma. E quindi è così, è un viaggio avventura e nel mito, nella riscoperta delle storie dell'Odissea, no? E anche il senso che hanno ancora oggi, perché ancora è una storia potente che ci parla, che ci riguarda, insomma, non è solo

collegamento telefonico con Nadia Baldi, direttrice dell'ottava edizione del Festival Segreti d'Autore in sei comuni del Cilento dal 29 luglio al 14 agosto. Nadia, ben trovata. Grazie mille, ben trovati anche a voi. Dato che non lo conoscevamo, raccontiamo un po' cos'è questo Segreti d'Autore. Allora, Segreti d'Autore è all'ottava edizione e si svolge nei paesi più arroccati del Cilento, in una zona che è tra Pestum e Palinuro, che i paesi sono Serra Mezzana, Lustra Cilento, Gioia Cilento, Testa Cilento e Stella Cilento. È un festival che ha per sottotitolo Natura della legalità, legalità della natura, e che praticamente vede da molti anni anche nomi illustri. Abbiamo avuto Barchiato, abbiamo avuto Servillo, abbiamo avuto Silvio Orlando, Preziosi, abbiamo avuto grandissimi scienziati. È un festival che si occupa di natura e di legalità attraverso l'arte, e quindi Segreti d'Autore perché sostanzialmente ospitiamo dei grandi autori che possono spaziare dal teatro alla letteratura, al cinema, alla musica, e che vengono a trattare questi argomenti con noi, incontrando una serie di personalità nel mondo scientifico, nel mondo che si occupa dell'ambiente. Ci si sposta da un comune all'altro in successione? No. Noi facciamo base a Valle Cilento, siamo in un castello meraviglioso che è appunto nel cuore proprio del Cilento, sotto il Monte Stella, dove facciamo la maggior parte degli eventi. Dopodiché negli altri paesi facciamo una o due serate, quindi in sostanza negli altri paesi ci muoviamo così in maniera itinerante per una o due sere al massimo, mentre il cuore è questo castello meraviglioso a Valle Cilento. E a Valle Cilento è tutte le sere dal 29 luglio? Più o meno sì, dal 29 luglio. 29 iniziamo, inauguriamo con l'incontro con Alessio Boni, che parlerà del suo percorso artistico, che prenderà un premio che è disegnato da Mimmo Paladino, che ci tengono tantissimo a sottolineare. E poi avremo qui sempre a Valle una serie di concerti. Diciamo che ci spostiamo a un certo punto, adesso benissimo le date non le ricordo, ma ci spostiamo tipo il 5 saremo con Franco Roberti e Chinnici e Cappuccio in un altro posto che è Laureana, e poi saremo con i Foia e lo spettacolo di Patrizio Lila, saremo a Serra Mezzana il 12, insomma chiaramente ci muoviamo un po' così, sì, a tappe anche nei giorni. Quanti saranno gli eventi, gli spettacoli? Sono orientativamente due al giorno. Okay. Due al giorno, e quindi dal 2 al 14 tutte le sere ci sono sempre incontri e spettacoli o concerti. Sì. C'è l'evento Facebook per saperne di più per la programmazione, giusto? Sì, c'è un sito che è festivalsegretidautore.it e c'è l'evento Facebook, sempre Festival Segreti d'Autore. Sì, ci sono entrambi ovviamente. Allora, ricordiamo l'ottava edizione del Festival Segreti d'Autore, Natura della legalità, legalità della natura, in sei comuni del Cilento dal 29 luglio al 14 agosto. Un ringraziamento e un saluto alla direttrice Nadia Baldi. Nadia, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, e che sperando che tutti aprano i sensi verso la bellezza. Grazie mille. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.